Se non ha avuto problemi con il nuovo vocabolario, continui con il prossimo dialogo. It's lunchtime. È ora di pranzo. Che fame! Sì, io ho anche sete. Fa caldo qui, troppo caldo. Oh, sei sempre il solito. Non sei mai contento. Ah, ecco Lorenzo e Sara. Oh, che caldo! È vero, fa caldo. Vero, Marina? Sì, sì, fa caldo. Allora, Sara non ha fame? Yes, sì, ho fame. Bene, andiamo alla trattoria di fronte. Ho prenotato un tavolo.